Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mare di Tiberaide, e una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e qui vi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi, e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: «Donde comprere noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi, che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or, com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti. La folla, che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola, e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: «Egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, «Signore, dacci sempre di cotesto pane». Gesù disse loro, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto, «Io sono il pane che è disceso dal cielo», e dicevano, «Non è costui Gesù il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice, «Io sono disceso dal cielo»?» Gesù rispose e disse loro, «Non mormorate fra voi». Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo». I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo, «Come mai può costui darci a mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero, «Questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare?» Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva, «Per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, «Non ve ne volete andare anche voi?» Simon Pietro gli rispose, «Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». E noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi dodici?» eppure un di voi è un diavolo? Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Scariota, perché era lui uno dei quei 12 che lo doveva tradire.